l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, 6 minuti dopo le 12, in diretta con il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa, l'Europa delle storie, delle persone, delle opportunità e delle possibilità. Come sempre, tante voci, tante opportunità, tante belle pratiche circolari, nel senso che possono essere imitate, copiate, prese come spunto per progetti simili. Le coordinate per seguirci anche virtualmente, @ Federico Taddia, i nostri social su Facebook e su Twitter, oppure @ Aeronet Plus R24, sono bacheche digitali, lì potete trovare tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare, i nostri post-it, le nostre segnalazioni, che anche voi ci potete fare mandare attraverso questi indirizzi oppure attraverso la mail altraeuropa@radio24.it. Come sempre poi il nostro sito radio24.it, lì tutti i contributi speciali, lì la possibilità poi di riascoltare la puntata. Ogni settimana tanti viaggi, oggi si riparte dall'Erasmus direzione Varsavia. A Varsavia a studiare inglese e francese, spendendo meno che a Londra e Parigi, con la speranza di divertirsi come a Barcellona. Questo è l'identikit della capitale polacca che, secondo una classifica elaborata da Uniplace, la piattaforma online di affitti per studenti, secondo questa classifica, valutando 5 parametri, costo dell'affitto, costo delle rette universitarie, costo medio di un pasto nei ristoranti, abbonamento mensile per i trasporti pubblici e il numero di università pubbliche, ecco, secondo questi 5 parametri ha stilato una classifica e Varsavia risulta la città ottimale in cui fare l'Erasmus. E quindi abbiamo deciso di andare anche noi a fare un pezzettino di Erasmus a Varsavia. Lo facciamo insieme a Giuseppe Raimo, studente di ingegneria informatica a Varsavia. Ciao Giuseppe, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, grazie. Allora, sorpreso da questa classifica o ti senti di assecondarla, insomma? Beh, personalmente credo che l'Erasmus sia bello un po' ovunque. Poi in ogni caso certamente si può cercare di fare una classifica, però è molto soggettiva. Si possono prendere in considerazione dei parametri oggettivi come l'affitto, qualità degli studi, certo, però sì, credo di poter confermare facilmente, senza troppi problemi, che Varsavia è una bellissima città dove fare il proprio Erasmus. Tu sei studente di Bari, se non erro, dell'Università di Bari? Sì, Politecnico di Bari. Sei a Varsavia da quanto? Sono a Varsavia dal 24 settembre, quindi fine settembre, quasi ottobre, e ci rimarrò fino a fine giugno probabilmente. Come mai hai scelto proprio Varsavia? Allora, in realtà è molto semplice, le mie scelte in ordine quando mi sono candidato per l'Erasmus erano Varsavia, Granada e Madrid. Okay. Ho scelto Varsavia perché 2 anni fa sono stato in Polonia, a Cracovia, e ci sono stato per una settimana e mi ci sono praticamente innamorato di questa città e quindi ho deciso di fare l'Erasmus in Polonia. L'unica città disponibile in Polonia era Varsavia, che ho scoperto essere totalmente diversa da Cracovia in tutto e per tutto, però è stata una bella sorpresa. Ecco, sei partito con quali aspettative? Cioè, avevi studiato la città, come ti immaginavi la capitale polacca e come invece l'hai poi trovata? Beh, io, come ho già detto, ho preso come esempio della Polonia Cracovia, era l'unica città polacca dove ero già stato, quindi era prezzi vantaggiosi, possibilità di divertirsi, una bella città che comunque l'idea che ci facciamo della Polonia in Italia molte volte di un paese arretrato quando invece non lo è. Assolutamente. E soprattutto era una città molto storica, Cracovia. Invece quando sono arrivato a Varsavia, beh, molto storica anche questa, però devo dire che risalta molto di più il lato tecnologico e il lato moderno. Ci sono grattacieli e quella è la parte principale di Varsavia, non il centro storico. Col polacco come te la cavi? Ah, col polacco, diciamo, livello base, ecco, riesco a sopravvivere. Buongiorno, buonasera, grazie, frasi comuni, perché no. Qui per il resto studio in inglese. Infatti, una sopravvivenza facile anche, se bastano queste... Il polacco è difficilissimo, assolutamente. È difficilissimo. Ascolta, e ci sono molti italiani? Allora, il primo semestre c'erano molti più spagnoli, meno italiani. Invece in questo semestre, il secondo, ci sono più italiani che spagnoli e sì, siamo un po' ovunque, abbiamo colonizzato Varsavia. E si tende a fare comunità o cerchi comunque di essere parte integrante della città in tutte le sue facce? Beh, in ogni caso per gli Erasmus è sempre un po' complicata cioè, non è complicata l'integrazione, però si tende a vivere l'esperienza Erasmus, quindi quando si va ad una festa, si va ad una festa Erasmus, quando si va a lezione, lezioni in inglese, ok, ci sono polacchi, ci sono italiani, ci sono Erasmus, ci sono persone dal Medio Oriente, ci sono cinesi, quindi si vive un ambiente internazionale. Mm-hmm. Poi certamente si può anche andare in posti polacchi, conoscere polacchi, però alla fine si preferisce in linea di massima frequentare ambienti internazionali. Certo. Beh, la Polonia nelle sue mille contraddizioni, no? Una delle nazioni che comunque in questi anni di crisi più è cresciuta, una nazione che ha fortemente voluto l'Europa. In questi ultimi mesi, insomma, in quest'ultimo anno, invece, in questi ultimi anni c'è stato un po' di allontanamento, no? Anche lì un risveglio dei nazionalismi. Adesso tu non leggi immagini quotidiani perché c'è il problema oggettivo della lingua, però quanto dista l'Europa dalla Polonia? Nel senso, è una nazione che ti sembra proiettata verso l'Europa? Oggettivamente direi di sì. Certo, vivere Varsavia, vivere le città principali è un conto, poi quando si esce da Varsavia sembra ancora un po' di stare nei vecchi paesi filosovietici, no? Però credo sì, alla fine è una nazione molto orientata verso l'Europa, come hai detto tu anche ne ha preso vantaggi e adesso tende a tornare sul nazionalismo. Però credo che rimanga comunque un paese molto europeo, ecco, membro importante della comunità. pv.isn.pl è il sito di ISN Polonia, come sempre l'associazione degli studenti universitari, che è un po' il nostro punto di riferimento quando parliamo di Erasmus. Un grazie davvero a Giuseppe Raimo, in bocca al lupo per i tuoi prossimi mesi di Erasmus a Varsavia. Grazie, posso, certo. Avevo promesso di dire due cose, posso? Dipende cosa sono queste cose. Vorrei salutare gli amici di Plac Czech e vorrei invitare chi ci ascolta il 25 aprile ad andare a Manfredonia, che c'è il Liquid con Francesco Delgard. Ok, che questo non c'entra niente con l'Erasmus a Varsavia, però insomma se l'avevi promesso facciamo così, attività di servizio pubblico con Radio 24. Ciao Giuseppe, grazie. Ciao, grazie a voi. Adesso ci fermiamo, un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Conferenza hashtag no hate speech. Siete interessati alle tematiche della libertà di stampa e del pluralismo dei media? Nell'ambito del progetto Il Parlamento dei Diritti, Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, in collaborazione con l'Associazione Carta di Roma, organizza il dibattito pubblico Informazione in Europa. Quale libertà? Pluralismo dei media, accesso all'informazione e contrasto al hate speech. Che si terrà a Roma nella sala Mappamondo della Camera dei Deputati alle 11.30 del 27 aprile. Durante il dibattito interverranno numerosi relatori del mondo dei media e delle istituzioni. Per richiesta, crediti e informazioni potete scrivere all'indirizzo mail info@cartadiroma.org. Ulteriori dettagli sul sito balcanicaucaso.org. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta l'altra Europa. When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends, and tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Si chiama Huma Yaz ed è un progetto europeo sulle tracce dei califfi. Questa è un po' la sintesi anche giornalistica, un progetto europeo finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera per il Mediterraneo CBC Med. L'idea è proprio quella di progettare e lanciare un itinerario turistico in ben 7 paesi: Spagna, Portogallo, Italia, Tunisia, Egitto, Libano e Giordania. Ne parliamo con Lucio Tambuzzo, referente del progetto per l'Italia. Ciao Lucio, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno, ciao. E tu partecipi con l'ente italiano, appunto, che fa parte di questo progetto, che è, ricordamelo, il Circuito Castelli e Borghi Medievali. Sì, il Circuito Castelli e Borghi Medievali di Sicilia, che ha lavorato in stretto con iWorld, abbiamo sede in Palermo. Certo. Che cos'è questo progetto? Sulle tracce dei califfi, che significa? Ma il progetto ha creato un percorso turistico integrato transmediterraneo che è focalizzato un po' sulla riscoperta di radici e storia comune, a partire dalle testimonianze omayyadi e più in generale sulle testimonianze della dominazione araba. Quindi è un percorso di integrazione in realtà di stili, di culture, di esperienze di viaggio, a partire proprio da questa dinastia degli Omayyadi che, avendo sede a Damasco in Siria, in meno di 100 anni sono riusciti a conquistare territori di tutti questi paesi, integrando anche elementi artistici bizantini, greci, romani, che sono stati poi assorbiti e restituiti in uno stile composito nuovo, per esempio che possiamo vedere nella moschea di Cordova. Certo. In Spagna, quindi è un percorso che rivela delle radici comuni mediterranee, in cui ci dà anche una nuova dimensione delle conquiste arabe, che hanno portato tantissime cose e innovazioni anche nel nostro mondo occidentale. Tutti sappiamo. Ma Lucio, cosa significa esatto proporre un progetto di questo tipo in questo momento storico, dove già la parola califfo evoca terrore, già dove nazioni come Siria, come la Siria, insomma, evoca comunque evoca problemi, evoca tensioni, evoca disastri nel patrimonio artistico, come ben sappiamo. Non dico una provocazione, però è un voler proporre altro a questo contesto. Ma è forse un voler richiamare l'attenzione su un tipo di dominazione che i califfi del 600-700, quindi di 1400 anni fa circa, insomma, hanno voluto operare e hanno agito in una logica anche di integrazione rispetto un po' a quello che succede oggi, paradossalmente, dopo tanti secoli in cui si cercano di alzare le barriere, di creare momenti di separazione. Quindi quello che abbiamo voluto fare è proprio riportare l'attenzione dei percorsi anche di sviluppo, questo momento proprio di scoperta, di rivelazione di radici comuni che hanno determinato nella nostra storia una serie di rivoluzioni importanti che noi vediamo anche adesso, per esempio la rivoluzione agricola che gli arabi hanno portato con l'irrigazione, ma anche tutti i prodotti che sono stati importati dalla cultura araba, quindi la canna da zucchero, gli spinaci, i cedri, il limone, l'arancia. Per non parlare anche della tecnica bancaria, ad esempio l'assegno, la lettera di cambio, il mondo della matematica è stato completamente rivoluzionato dalle conquiste arabe. Quindi Esatto, tutti questi saperi vengono tradotti in progetti turistici, c'è anche un indotto, no? Un indotto economico in questi itinerari. Sì, ma immaginiamoci, assolutamente, immaginiamoci anche per esempio che l'arabo normanno in Sicilia, Palermo, c'è stato il Monreale, è stato anche riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità. Quindi sono una serie di percorsi che rivelano tutta questa sincresi culturale, religiosa, e che la trasferiscono in un prodotto turistico assolutamente innovativo che vuole portare all'attenzione l'importanza di creare percorsi di dialogo e di sviluppo locale integrativo nel Mediterraneo, che poi questo è quello che vogliono fare le politiche di vicinato dell'Unione Europea. Certo. circuitocastelli.com è il sito dell'associazione da te presieduta, e lì si trovano anche tutte le informazioni sul progetto europeo? Sì, c'è il progetto, il progetto che è umayyad.eu. Perfetto. Quindi potete trovare tutti gli itinerari e potete trovare tutte le informazioni sul progetto. Grazie davvero, buon lavoro. Ciao Lucio, buon grazie sabato. Grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao. Buon weekend. Allora. Europost-it. Concorso Be Creative Challenge. A tutti i giovani artisti e agli imprenditori creativi europei. KA European Affairs, partner del progetto Creative Tracks, lancia Be Creative Challenge, un concorso internazionale dedicato ai creativi che si occupano di tematiche quali povertà, migrazioni, cambiamenti climatici e vita urbana. Artisti, collettivi artistici, imprenditori culturali e creativi sono invitati a presentare le loro candidature entro il 28 aprile. In palio un premio di 3.000 euro e diverse azioni per l'incubazione dei progetti vincitori. Tutte le istruzioni e il bando sono consultabili sul sito di Europa Creativa cultura.cedesc.beniculturali.it. Cinque chef per l'Etiopia in un progetto che vede insieme l'Unione Europea e il World Food Program, un progetto che si chiama What Food Means, e tra i cinque c'è anche un italiano, Simone Ruggiati, a cui diamo il benvenuto. Ciao Simone. Buongiorno a tutti e buona giornata della terra a tutti. Grazie, è vero, bravo che ce l'hai ricordato. Sì, giornata importante. Giornata importante, soprattutto per chi come te, insomma, sei uno chef, quindi con i prodotti della terra ci lavori, quindi a doppia ragione chiedi particolare cura, credo, no? Assolutamente, non soltanto ci lavoro, da quest'anno proprio sto assolutamente pensando di ampliare la mia azione su una ricetta, quindi non soltanto da quando la zucchina di turno arriva sul tagliere, ma da quando la zucchina viene piantata e cresciuta. Quindi l'idea è proprio quella di tornare proprio alla terra, perché senza di quella possiamo metterci tutta la fantasia che vogliamo, ma se non c'è la sostanza alla base si perde tanto. Quindi sì, sono molto attento a questo. Simone, sei stato scelto per questo progetto, di cosa si tratta? Allora, si tratta di essere utilizzati o essere il mezzo di comunicazione, quindi di racconto di attività che vengono fatte in luoghi davvero, davvero lontani da quello che è l'esposizione mediatica, davvero lontani, anche perché, insomma, diciamoci la verità, ci sono tante anche situazioni adesso attualmente al mondo difficili, quotidiane, da tempo e da anni, quindi diciamo che è anche difficile raccontarle tutte, però ci sono problemi di siccità, quindi manca l'acqua e manca l'acqua a popolazioni che vivono di pastorizia. Questo per colpa di un igno che si è ripetuto dopo un disastro successo anni fa con tantissimi morti, si è ripetuto l'anno scorso e quest'anno se ne vedono le conseguenze. Quindi il World Food Program si occupa di sostentare proprio le popolazioni etiopi che vivono in questi deserti rocciosi ampissimi. Sembra quasi una provocazione, però là dove mancano le materie prime per mangiare, per sopravvivere, si manda uno chef, che insomma è l'ultimo dei pensieri, no? Assolutamente, forse per due motivi. Quasi io, mentre vi parlo, ho la pelle d'oca solo ripensando a quei momenti. Per due motivi, credo. Uno, perché in questo momento abbiamo riscoperto in questi ultimi anni la cucina, una cosa vera che abbiamo comunque tutti i giorni, quotidiana, almeno tre volte al giorno dobbiamo affrontare, e che cominciamo a capire essere davvero legata a quel benedetto proverbio "siamo quel che mangiamo", e quindi c'è più attenzione alla qualità, alla bontà del piatto. Quindi gli chef sono stati messi un po' sul piedistallo, perché sono quelli che poi divulgano anche i modi di mangiare, spero, non soltanto le ricette, e quindi siamo utilizzati come trendsetter, ma allo stesso tempo perché siamo quelli che siamo ogni giorno a contatto con tanto cibo, e vederne così la mancanza, forse a schiaffo, siamo quelli che più possono trasmettere questa sensazione di vuoto alimentare che c'è là. Certo. Partendo dall'acqua, che è la base. Simone, ti chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo perché per i nostri tempi adesso abbiamo la pubblicità, poi torniamo immediatamente da te, così ci racconti quello che hai visto, quello che hai fatto. L'altra Europa. Beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a bee. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, @ Federico Taddia su Twitter e Facebook, lì potete trovare tutti i nostri link. Ho appena pubblicato anche il link di questo video che vede Simone Rugiati protagonista e racconta la sua esperienza all'interno del progetto What Food Means. Simone, cosa hai fatto? Abbiamo viaggiato per una settimana intera attraverso le montagne, attraverso i deserti, raggiungendo varie tipologie di villaggi per capire anche le varie tipologie di sostentamento che viene dato, perché c'è un programma per sapere che là c'è un tasso di nascita altissimo, si parla di una media di 7-8 bambini per ragazza. Quindi diciamo che le giovani ragazze tra i 18, 20 e i 27 anni sono praticamente per questo arco di vita praticamente ogni anno incinta o poco ci manca. Quindi devono essere seguite da un medico che giornalmente batte villaggio per testare con dei metodi piuttosto semplici, ovvero un nastro che più si stringe sul bicipite più arriva in una zona rossa, e quando si raggiunge la zona rossa si comincia a essere veramente in pericolo. Per farvi l'idea, la zona rossa chiude il mio polso. Quindi si parla di materie prime che sono state un po' arricchite, quindi sali minerali, vitamine, proteine, per poi poter allattare. E lo stesso viene fatto per i nascituri. Quindi questo è un programma più, diciamo, sulla salvaguardia delle nascite delle madri che hanno bisogno di un'alimentazione diversa. Su tutto il resto del villaggio, quindi della popolazione, si agisce più su un sostentamento a base di legumi e cereali. Ti ho visto mangiare, ti ho visto fare il pane, ti ho visto con non loro visto piangere, con loro tagliare delle cipolle. Era colpa delle cipolle. Cioè, avete visto qualche lacrima, in uno strano scambio, eri tu che insegnavi o eri tu che imparavi? Allora, in questi viaggi si impara e basta, da quando si cucina a quando si cammina in mezzo alla gente, perché diciamo che può sembrare sempre retorica questa frase, però io facendo queste esperienze anche in privato, anche durante i miei viaggi di vacanza, vado a farmi delle esperienze un po' più sociali, perché penso che arricchiscano principalmente noi. Certo, più che altro lì c'era da capire come cucinavano, perché si parla di un po' di brace e una pentola passata famiglia per famiglia, quindi non è che ci sia da scegliere grandi ricette. Però lo scambio è stato utile, penso, anche per loro, perché in alcuni casi cuocevano delle verdure in maniera sbagliata come tempistica e magari perdevano alcuni valori nutrizionali di questi alimenti. Quindi qualche consiglio ho buttato lì tra un sorriso e una storia piuttosto seria e difficile da interrompere con battute o con ritorni sulla cucina, qualche consiglio gliel'abbiamo dato e magari alla lunga paga, sia come preservare la materia prima a livello nutrizionale, sia come preservare alcuni ingredienti più difficili da trovare come le spezie. Grazie davvero. W1.wfp.org è il sito del World Food Program, oppure foodloft.it è il sito di Simone Rugiati. Tutto ciò lo trovate sui nostri social e lì anche il link diretto al video realizzato da Simone in Etiopia. Grazie davvero, complimenti Simone, buon sabato. Grazie a voi tutti, buona giornata. Ciao. Europost-it. Pompei e i Greci, mostra racconta il Mediterraneo. A tutti gli appassionati di storia europea e mediterranea, a Pompei dal 12 aprile al 31 ottobre arriva la mostra Pompei e i Greci. Allestita nella Palestra Grande degli Scavi, la mostra esplorerà l'antico rapporto tra alleanze e conflitti che le civiltà del Mediterraneo hanno avuto nella storia. In esposizione oltre 600 reperti tra ceramiche, ornamenti, armi, elementi architettonici e sculture provenienti dai principali musei nazionali ed europei. Tra questi anche la statua dell'Afrodite Sosandra di Stabie, le scritte in greco e latino di Moregine e un'idria originale greca appartenuta a Giulio Polibio. Informazioni e orari sul portale della soprintendenza di Pompei, pompeisites.org. Questi sono i nostri Europost-it. Come sempre vi invito a segnalarci iniziative, progetti, programmi a cui partecipate. Il nostro indirizzo è l'altraeuropa@radio24.it per contattare direttamente la redazione. E a proposito di belle iniziative, di belle novità, di nuove e buone possibilità, andiamo a scoprire questa banca che è stata presentata in questi giorni, è stata così soprannominata la banca della natura ed è un nuovo strumento per rivitalizzare il capitale naturale europeo. Ne parliamo con Alberto Zocchi, presidente di Rewilding Happenings. Ciao Alberto, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, ciao. Una banca della natura è una giusta etichetta, una giusta definizione? È la traduzione letterale di Bank on Nature Initiative, l'iniziativa della Commissione europea che vuole, come dire, valorizzare il capitale naturale europeo. Una parte dei soldi dello strumento finanziario LIFE, che è il principale strumento finanziario che promuove e finanzia progetti per la conservazione della natura e delle risorse naturali in Europa, è stata diciamo messa in mano alla Banca di Investimento Europea, che ha creato uno strumento apposito, e Rewilding Europe, la fondazione con base in Olanda, della quale Rewilding Europe, della quale Rewilding Happenings è il partner esclusivo in Italia, Rewilding Europe è riuscita ad avere per primi un finanziamento di 6 milioni di euro per sostanzialmente favorire una partnership tra il settore privato e la conservazione e la gestione delle risorse naturali. Come funziona? Sostanzialmente è un fondo attraverso il quale Rewilding Europe Capital, che è una struttura appositamente creata da Rewilding Europe, dà finanziamenti, prestiti a imprenditori, associazioni, organizzazioni locali, amministrazioni, per attivare dei progetti o delle iniziative che abbiano anche un carattere di tipo commerciale, diciamo così, che però siano basate sul capitale naturale. Forse è meglio, come dire, inquadrare un attimo qual è l'iniziativa di Rewilding Europe. Sì. Mm-hmm. Quello che si osserva in Europa è un enorme abbandono dei terreni da parte dell'agricoltura, soprattutto nelle aree diciamo più remote, più disagiate. Calcoliamo che una superficie pari a quella della Germania sia stata abbandonata. Questo crea dei problemi, ovviamente, crea dei problemi per tutta quella struttura naturale che richiedeva la presenza dell'uomo con le sue attività tradizionali, crea dei problemi perché non ci sono possibilità di impiego soprattutto per i giovani in queste comunità, diciamo così, che vengono definite comunità svantaggiate, e problemi di emigrazione da questi villaggi. Noi nella nostra zona di rewilding, che è nell'Appennino centrale, osserviamo tutti questi fenomeni in maniera assolutamente marcata. D'altra parte, questa tendenza porta a un ritorno della fauna selvatica. Noi stiamo osservando in Italia centrale, abbiamo osservato negli ultimi decenni il ritorno del lupo, sono state reintrodotte diverse specie, gli avvoltoi grifoni che ora volano in diversi massicci montani dell'Appennino centrale, è stato reintrodotto il cervo che era estinto in molte altre zone, e tutto questo sta portando alla possibilità, una maggiore possibilità di osservare animali selvatici, ma anche a dei conflitti con le popolazioni locali, perché, che ne so, l'orso e il lupo possono creare danni agli apiari o alle greggi. Come mettere insieme tutti questi pezzi? Tutti questi pezzi possono essere messi insieme e rappresentare un'enorme opportunità per lo sviluppo delle comunità locali. Però per farlo bisogna sostenere queste attività. Come farlo? Finanziando giovani imprenditori che attraverso, ad esempio, la creazione di iniziative di tipo turistico compatibile, diciamo, con le risorse naturali che ci sono a disposizione, possano portare un afflusso turistico e guidarlo e trarne beneficio. Faccio un esempio per andare in pratica. Uno dei posti migliori, se non il posto migliore, dove osservare orsi in Abruzzo è subito al di fuori dei confini del Parco Nazionale d'Abruzzo. Sì. I turisti dalla Francia, dal Nord Europa, dalla Germania, dall'Olanda vengono, scambiandosi informazioni via internet, sanno che esiste questo posto, vengono completamente, come dire, attrezzati e vengono ad osservare queste cose, senza che però di questo venga data nessun vantaggio alle comunità locali. Noi stiamo cercando di, uno dei primi finanziamenti che il meccanismo di Rewilding Europe Capital ha già messo in piedi, è stato finanziare un imprenditore locale, un giovane imprenditore locale che sta recuperando dei rifugi di montagna, sta creando dei capanni di osservazione della fauna, ha a disposizione delle tende in stile, come dire, sudafricano, tende di lusso che possono essere messe in posti remoti, per creare delle opportunità per questi turisti per vivere la natura selvaggia che sta tornando e che noi vogliamo assolutamente sostenere, portando però dei benefici alle comunità locali. Alberto, mancano solo i finanziamenti o mancano le idee, mancano poi i giovani che hanno voglia di buttarsi in queste attività? Dunque, no, direi di no. Nella nostra esperienza, e questa è un'esperienza, Rewilding Europe ha l'obiettivo di rendere nuovamente selvaggio 1 milione di ettari in Europa. E attualmente ci sono 8 aree nelle quali stiamo lavorando, sparse un po' in tutta Europa. In ognuno di questi posti la cosa che noi osserviamo è che i giovani sono molto legati al loro territorio. Per quello che riguarda l'Appennino centrale, ci sono tantissimi giovani che dovrebbero emigrare oppure lo hanno già fatto, sono andati, che ne so, a Roma, sono andati ad Avezzano, nelle città più grandi, a cercare di lavorare, e molti di loro in realtà sono tornati indietro perché vogliono stare a casa loro, però non sanno come sopravvivere. Noi siamo andati lì a proporgli delle cose molto semplici. Dice: bene, voi avete il problema, tra virgolette, dei lupi, avete il problema degli orsi che entrano nei meleti e mangiano le mele. Questa è un'opportunità, perché c'è gente in tutta Europa disposta a pagare per venire da voi e vedere come voi vivete, vedere questi animali e avere delle esperienze con una natura selvaggia e anche con una natura che si integra con le popolazioni locali. Quindi la voglia dei giovani c'è senz'altro, cercano opportunità. Cercano opportunità, cercano strumenti, cercano opportunità. Esatto, anche quello che noi forniamo è proprio questo, dargli con la consulenza degli esperti dei Wild in Europe Capital, come dire, le dritte su come farlo, come accogliere dei turisti stranieri, che tipo di servizi dargli, che tipo di qualità dei servizi fornire, come svolgere le loro attività senza avere un impatto negativo sull'ambiente, sugli animali. Sì, tutta quella che è un po' la grammatica del vostro lavoro. Ricordiamo l'indirizzo, che è rewildingeurope.com, per avere tutte le informazioni. Grazie ad Alberto Zocchi per averci illustrato questo progetto. Buon lavoro, Alberto. Ciao. Noi ci fermiamo. Un Europostit, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Let's clean up Europe. Ogni anno milioni di tonnellate di rifiuti vengono abbandonate nel mare, nei fiumi e nei boschi. Inquinano, deturpano il paesaggio e minacciano la salute di persone, animali e ambiente. Allo scopo di accrescere la consapevolezza sugli stili di vita sostenibili, torna Let's Clean Up Europe, la campagna europea contro l'abbandono dei rifiuti. Dal 12 al 14 maggio saranno organizzate iniziative di pulizia dei territori in contemporanea in tutto il continente. Sono invitati a partecipare istituzioni ed enti locali, associazioni di volontariato, scuole, gruppi di cittadini e imprese. Coloro che volessero proporre e organizzare azioni di raccolta e pulizia straordinaria dei rifiuti in aree verdi, parchi, piazze, spiagge e simili possono visitare il sito menorifiuti.org e registrarsi online. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com. Vi presento L'altra Europa. We are the reckless, we are the wild youth, chasing visions of our futures. One day we'll reveal the truth. That one will die before he gets there. And if you're still bleeding, you're the lucky ones. 'Cause most of our feelings, they are dead and they are gone. We're setting fire to our insides. 75 giovani studenti europei chiamati a ridefinire le politiche dell'Unione Europea in tema di innovazione, sviluppo sostenibile e globalizzazione. 75 giovani europei che per 3 giorni hanno discusso, si sono confrontati, una 3 giorni che si conclude oggi. Si è tenuta a Milano la seconda edizione dell'European Youth Debate. Ne parliamo con Federico Calciolari, presidente di European Generation. Ciao Federico. Buongiorno, buongiorno. Allora, intanto ricordiamo che cos'è European Generation. European Generation è un'associazione studentesca dell'Università Bocconi che in questo momento raccoglie più di 75 studenti, di cui la metà appartenenti ad altre nazionalità rispetto a quella italiana, e che all'interno dell'università è attiva con l'obiettivo di promuovere l'Unione Europea, ma al di là di promuoverla e basta, cercare di creare un dibattito attorno al futuro di questa Unione, soprattutto in un momento come questo in cui in seguito a Brexit e in seguito alle tante altre crisi che stiamo vivendo c'è proprio bisogno di nuove energie per ripensare l'Unione Europea. Infatti mi chiedevo qual era lo spirito, cioè quello da ultima spiaggia e quello da comunque studenti e studentesse consapevoli, ma che forse non capite questa distanza che c'è nelle generazioni un po' più grandicelle di voi, quindi vi sembrano un po' degli alieni che parlano di questa Europa in maniera così distaccata, o invece c'è proprio il desiderio di inserirsi in questa crisi cercando di cambiare le cose? Qual è l'energia che vi anima? Allora, devo dire la verità, di sicuro la mattina, o meno il giorno in cui ci sono stati i risultati del referendum inglese, siamo rimasti tutti molto molto scioccati del risultato e il primo impatto è stato molto molto demotivante, però effettivamente da lì abbiamo visto che comunque c'è un giorno dopo e c'è bisogno di rimettersi a lavorare. Sicuramente molto spesso si parla di Europa come di un progetto che è come se fosse già finito e del quale si sottolineano le criticità, mentre diciamo la forza che ci motiva è il voler raccontare agli studenti in primis, ma soprattutto anche all'esterno dell'università, che l'Europa non è un fine in se stesso, ma è uno strumento per raggiungere degli obiettivi e che non è assolutamente completa. Quindi sicuramente non c'è da piangere sul latte versato, c'è da rimboccarsi le maniche e cercare di raccontare che appunto l'Europa è un progetto ancora in divenire, è molto ambizioso e quindi richiede molta fatica per essere portato avanti, ma che ha delle potenzialità veramente limitate. Quindi è principalmente questa la logica con la quale noi membri di questa associazione portiamo avanti il nostro lavoro. Mm-hmm. Vi avviate alla chiusura, credo, di questi 3 giorni. C'è qualche sunto, c'è una sintesi significativa? Assolutamente. La 3 giorni si è aperta con una serie di 6 conferenze da persone che appartengono alle istituzioni europee. Abbiamo avuto una persona che è nel board dell'Ente Spaziale Europeo, degli europarlamentari. E poi i 2 giorni successivi sono stati di dibattito sui 4 temi che ha introdotto all'inizio della sezione, e oggi abbiamo appena chiuso l'ultima conferenza in cui sono stati discussi uno alla volta e sono stati approvati. E la cosa che mi ha sorpreso di più in assoluto è che dei 75 partecipanti all'evento penso che nessuno si sia trattenuto dal dire la propria opinione, sia quando la discussione si è tenuta in dei tavoli di lavoro, sia oggi che c'è stata una sessione plenaria, e alla fine tutto questo ha pagato, perché il risultato finale, che sarà poi portato da 4 partecipanti che sono stati eletti portavoce a Strasburgo, è stato approvato all'unanimità praticamente tutto. Quindi nonostante nei giorni precedenti ci sono stati dei dibattiti anche molto accesi, però coinvolgendo tutti nella discussione siamo riusciti ad ottenere un documento che appunto porteremo alle istituzioni, che secondo me è di grande valore e condiviso appunto da tutti i partecipanti. Federico, tutto ciò si riesce a fare uscendo dal burocratese e dai tecnicismi? Beh, è quello che stiamo cercando di fare. È proprio la volontà di portare il dibattito su temi anche così complicati e così centrali anche agli studenti, che in parte ovviamente stanno costruendo le proprie competenze, cercano di dire la propria, farli incontrare con chi ha più competenze di loro e permettere loro non solo di discutere di policy concrete, ma anche di ripensare quelli che devono essere i valori su quali l'Europa deve rifondarsi e deve proseguire sul suo cammino. Quindi burocratese si cerca di evitarlo, si cerca di portare dei contenuti concreti senza perdere di vista però il quadro generale. Certo. E ora cosa accadrà questo documento, a chi verrà consegnato e quali sono gli step successivi? Con le ultime modifiche che sono state approvate stamattina, il documento sarà poi riassemblato tutto insieme, trasformato in un libretto che conterrà tutte le proposte, e 4 studenti selezionati, che sono stati poi 4 portavoce dei 4 temi, andranno in viaggio a Strasburgo in visita al Parlamento europeo, incontreranno alcuni europarlamentari e avranno la possibilità di raccontare loro l'opinione appunto dei partecipanti a questo evento, che hanno rappresentato veramente una grande diversità di provenienze diverse. E penso che ci siano state 18 nazionalità e quindi in realtà sarà proprio un momento di incontro e di discussione su temi concreti fra studenti e istituzioni. Europeangeneration.eu, questo è il portale dell'associazione. Un grazie a Federico Calciolari, buon lavoro per oggi. Ciao Federico, ciao. Grazie. Ciao. Europostit. Nasce il Corpo dei Giovani Volontari Interregionali Europei. Sei un giovane europeo tra i 18 e i 30 anni e sei alla ricerca di un'emozionante esperienza di volontariato all'estero? Nell'ambito del Corpo Europeo di Solidarietà, la Commissione Europea ha lanciato il progetto Giovani Volontari Interreg. nel quale i volontari vestiranno i panni dei reporter e racconteranno i risultati ottenuti dai progetti interregionali, oppure aiuteranno a concretizzare gli stessi progetti diventandone partner. Informazioni offerte sul sito ufficiale interregyouth.com. I nostri Europosit, che potete ritrovare sul sito radio24.it, da lì scaricare il podcast, lì trovare le mail e tutti i contatti per entrare in relazione con noi. Un grazie a Claudia Schiattone, oggi in assistenza, Valeria Bernardi alla parte tecnica, come sempre. Un grazie anche a Silvia Righini e Miriam Lucchetti, che con me hanno scritto la puntata. L'appuntamento, come sempre, a sabato prossimo, sempre alle 12, sempre in diretta qui da Radio 24 per raccontare l'Europa delle storie e delle persone. Ancora buon sabato da Federico Taddia. L'altra Europa.